Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane fino alle ore 21:30. Oggi, giovedì 14 novembre, ma andiamo subito con la sigla di apertura. Ecco, questa era la sigla di apertura di questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda in diretta radiofonica qui ogni giovedì grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Andremo avanti fino alle ore 21:30 e ora, come già detto anche prima, siamo in diretta, quindi oggi è il 14 novembre. E andiamo subito all'ascolto di alcuni brani per questa band inglese, i One Way System, dal loro album datato 1983, Writing on the Wall. Buonasera a tutti voi che ascoltate anche da parte mia per questa puntata di Zardins Magnetics di giovedì 14 novembre. Siamo in diretta come sempre dalle frequenze NFM di Radio Onde Furlane, emittente di Udine, che ci ospita da molti anni in questo spazio autogestito, come già detto, a cura dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione. E un saluto anche a tutti quelli che ci ascoltano in streaming, in diretta da tutta Italia, quantomeno, ma anche oltre, e lo sappiamo, e nonché a chi ci ascolta in differita. Per questa serata di Zardins Magnetics io ho pensato di suddividere in due blocchi la puntata di stasera. Per quanto mi riguarda, la prima, diciamo, parte sarà un po' di informazione, un po' di aggiornamento sul locale, anche sul extra locale. Mentre la seconda parte, come da abbiamo promossa, diciamo, è una, così faremo delle, racconterò un po' due autobiografie di due donne che hanno lottato in due momenti storici abbastanza diversi, ma sempre in contesto dello stivale qui, insomma, nell'Italia cosiddetta. E partiamo quindi a pesce con vi avevamo già avvisato di questo fatto, diciamo, questo incidente mortale che è accaduto a un compagno ad Atene il 31 ottobre, ed è, diciamo, è uscito l'annuncio di una chiamata internazionale per una giornata d'azione in memoria del compagno anarchico Kriakos Ximitiris per il 16 novembre 2024. Vado a leggervi veramente qualche frase di questa chiamata, che è stata tradotta in italiano, anche in italiano la trovate, insomma, cercando i soliti siti. Scusate. Contro un mondo che emargina chiunque non rientri nella sua normalità, che normalizza lo sfruttamento e l'oppressione di chi sta in basso, il movimento anarchico anti-autoritario combatte con tutti i mezzi. L'azione multiforme è ciò che porterà alla radicalizzazione e alla pienezza delle nostre risposte e del nostro attacco all'esistente. Le opzioni della controviolenza rivoluzionaria e della lotta armata come parte integrante della lotta multiforme oltrepassano i limiti della legittimità borghese e sfidano il monopolio statale della violenza. Sono queste scelte di lotta che mantengono vivo il filo della ribellione da quel novembre 73, rivolta del Politecnico, a oggi. Tali scelte sono parte integrante di una continuità storica insurrezionale che mantiene viva nei nostri cuori, nelle nostre menti, la visione della rivoluzione sociale. L'operazione di minare il dibattito rivoluzionario e la successiva repressione dimostrano che i bastardi delle agenzie del terrore di Stato temono coloro che non scendono a compromessi con l'ingiustizia, la disuguaglianza, lo sfruttamento, contro l'operazione di propaganda e intimidazione dello Stato e dei padroni, così come contro il tentativo di depoliticizzare le opzioni al rialzo, rispondiamo innanzitutto politicamente e indipendentemente dal caso specifico. Lo dobbiamo, oltre che a tutti gli altri, a tutti coloro che hanno dato la vita, che sono stati imprigionati, che hanno combattuto in tanti anni di guerra sociale e di classe. La lotta armata è parte integrante del movimento radicale, della multiforme lotta sociale e di classe profondamente radicata nella nostra tradizione militante, e noi la difendiamo senza riserve. Contro il mondo dell'individualizzazione e del fatalismo continuiamo a lottare con tutti i mezzi. Ci rafforziamo a vicenda, difendiamo i nostri compagni, giù le mani dei compagni, dalle compagne, dagli amici, dalle amiche, nessuno sarà lasciato solo contro la campagna repressiva dello Stato e del Capitale. Di fronte alle tattiche dell'antiterrorismo e al cannibalismo mediatico, facciamo in modo che la nostra solidarietà rappresenti un baluardo per i nostri compagni prigionieri e per qualsiasi altro procedimento giudiziario. La repressione non ci spaventa e siamo al loro fianco senza esitazioni. To the MAGA hat wearing attackers, to Trump and his motherfuckers, to the cops only following orders, to the guards closing Europe's borders, to fascism in Sudan and Hungary, to the Sisi regime and army, to the Israel Hasbara lobby, to the men who think they can have my body, to the border wall fortress Europe, hating migrants, hating Muslims, to anti-Deutsch silencing Jews, Fox and Breitbart, fake news. We are not afraid of you. We got our flesh and we'll use it to Abbiamo già voltato pagina su queste note, su questo brano di Liad che è stata qualche giorno fa qui di passaggio, e passiamo appunto anche noi a una notizia che secondo me va va sostenuta, diciamo così, un'iniziativa che è stata presa, diciamo, nella città di Torino, occupata da Leonardo S.p.A., dall'intifada studentesca. Allora, cosa è successo? Ieri, mercoledì mattina, si svolgeva veramente presso una sede del colosso industriale dell'industria bellica italiana, un convegno era in corso un convegno della difesa, quindi era presente anche il ministro Crosetto, e che ha definito questa iniziativa che vado adesso a svelarvi antisemita, l'iniziativa organizzata dai soliti sovversivi. E quindi era, appunto, gli studenti sono presentati alla sede di, appunto, di Corso Francia a Torino della Leonardo, hanno varcato i cancelli e hanno svolto un... Beh, insomma, adesso manderemo anche un contributo audio da Radio Blackout, proprio di, se non sbaglio, di ieri, di stamattina, o di, non mi ricordo più se era stamattina o ieri, ma comunque di una compagna che, appunto, ha partecipato e vi dirà com'è andata la cosa. E andiamo a far scemare questo sottofondo musicale per parlare con una compagna dell'intifada studentesca. Ciao, ci senti? Sì, ciao. Ciao, grazie di essere qui con noi oggi, siete sempre molto disponibili per aggiornarci un po' sulle vostre iniziative, quindi noi ti chiederemo di parlarci un po' di quello che avete fatto ieri, di quello che avete organizzato e in che contesto di mobilitazione si inserisce. Allora, innanzitutto grazie a voi la giornata di ieri è stata innanzitutto una grande occasione e una grande giornata mobilitativa, innanzitutto prendo dal fatto che è stato possibile entrare nello stabilimento e occupare la Leonardo S.p.A., che come ben sappiamo è una delle più grandi aziende in campo di produzione di armi in Europa, anzi la prima nell'Unione Europea e la seconda in Europa, e questo già ci dà contezza di quello che è il coinvolgimento di questa azienda nel settore bellico e in questo business, appunto, della guerra. E quindi sicuramente è stata una grande vittoria riuscire ad agire in questo campo qui, e sono discorsi che noi come intifada studentesca da un po' che cerchiamo di portare avanti, quindi innanzitutto il fatto di essere riusciti ad entrare, occupare e per due ore partire in corteo all'interno dello stabilimento e non farci fermare da niente e nessuno, insomma, sventolando le nostre bandiere, ribadendo i nostri concetti, è stato fondamentale. E come vogliamo, appunto, ricordare, diciamo che all'interno dello stabilimento si sarebbe tenuto anche un convegno con del personale del Ministero della Difesa, e diciamo che anche qua vogliamo ricordare quali sono state le dichiarazioni poi dei nostri ministri sull'esportazione degli armamenti dal 7 ottobre in poi, che sarebbero stati dovuti appunto interrompere, sospendere. Ciò non è avvenuto, e quindi, nel senso, ribadire anche che questi personaggi non ci rappresentano e che sono questi i personaggi che, appunto, fanno parte delle nostre istituzioni. Quindi diciamo che questo concetto innanzitutto è fondamentale, e sono anche ragionamenti che noi ci stiamo portando come intifada studentesca, che da movimento universitario vuole muoversi poi effettivamente poi sulla città, e quindi questo è stato un primo tentativo anche di espandere e, come dire, trasformare la nostra mobilitazione in un campo anche un po' più generale, più ampio, che si sposta dall'università e si muove, appunto, verso la città, e che in questo caso qui va a denunciare un po' il problema che di base, come ben sappiamo, è poi sistemico, e quindi di questa società che è sempre più militarizzata, e il nostro obiettivo anche come universitari è quello di spostare poi anche l'attenzione che parte da una mobilitazione, un movimento universitario, per poi diventare anche un movimento che effettivamente va a fare un esame di realtà su quello che è il problema sistemico, appunto, della guerra e di questo stato anche guerrafondaio, e quindi riuscire ad avere una visione più ampia che chiaramente parte da insomma dal genocidio in Palestina e poi si sposta a Libano, si sposta allo Yemen, alla Cisgiordania, insomma, nel senso, abbiamo comunque l'obiettivo di iniziare a parlare anche di antimilitarismo, e quindi questo è stato un passo importante, diciamo, no? Per dare il via a questi discorsi qua. E insomma, poi nello specifico sulla giornata di ieri, diciamo che a differenza di quello che è stato scritto ad esempio nei giornali, nel senso, è ridicolo che ci venga dato dei delinquenti quando quelli poi con le mani sporche di sangue sono loro, e nello specifico poi nella giornata di ieri è stato interessante perché in una cinquantina siamo riusciti ad entrare, e diciamo che i cancelli erano caldamente aperti, quindi non c'è stato nessun tipo di problema nel varcare quella soglia, e siamo partiti in corteo, siamo entrati nelle varie sale, vari uffici, mentre all'ingresso presidiavano altri manifestanti, appunto, che ci hanno aspettato all'ingresso bloccando anche lì le entrate, mentre poi l'arrivo effettivo dell'accelere è avvenuto solo alla fine, e anche lì viene scritto che sono loro averci fatto uscire, quando noi in realtà ce ne siamo andati via autonomamente e scegliendolo, insomma. Quindi anche lì l'intervento inutile della polizia alla fine della mobilitazione di ieri, come sempre, si è rivelato ridicolo, e niente, per poi insomma finire con un breve corteo in Corso Francia. Insomma, diciamo che la giornata di ieri è stata molto molto forte, molto importante. Sei stata veramente esaustiva, e anche anticipato una domanda che ti avrei voluto fare, appunto, su quello che esce sui giornali come narrazione. Ti rubo qualche minuto perché è una riflessione secondo me molto importante da fare insieme, sul fatto che si cerca sempre di poi ridurre quello che gli studenti, le studentesse non solo cercano di dire a sono dei pazzi esaltati, terroristi, facinorosi, che è una narrazione molto vuota, a cui comunque voi avete sempre risposto con l'informazione. Si è visto anche durante l'occupazione delle università, vi siete riuniti per informarvi, per creare dei documenti, quindi questa è una cosa sicuramente che va a vantaggio della mobilitazione, che non accenna a fermarsi. Quindi io ti chiederei a questo punto se vuoi rilanciare delle iniziative che so che avete in programma per invitare la partecipazione comunque di questo percorso di controsaperi e di mobilitazione. Certo, sicuramente la mobilitazione non si ferma, non ci fermeremo, e nello specifico ricorderei il corteo di domani, il corteo studentesco che partirà dalle 9:30 da piazza 18 dicembre, e poi invece il corteo regionale sempre per la Palestina che partirà invece da piazza Statuto alle 14:30 di sabato. Quindi invitiamo tutte e tutti caldamente a partecipare a queste iniziative e a unirvi alla mobilitazione, e riaffermiamo che appunto l'intifada non si ferma e continuerà. E niente, se ci sono altre, insomma, altre domande o altre delucidazioni, insomma. No, direi che sei stata perfetta, e quindi io ti saluterei e ti farei un grande in bocca al lupo per le manifestazioni. Raccogliete tutti i documenti possibili per poi raccontare anche come vanno questi momenti, diciamo. Grazie mille. Grazie a voi. My hustle ain't free, and my ass or my titties, it's a hustler in me. My hustle ain't free, baby, my hustle ain't free. Who's that girl? See me on the street, make you wanna smash. Who's that girl? Style and attitude, come and spend some cash. Sexy. I walk with a switch and talk receipt slang. I am the tribe, baby, I ain't scared to do my thing. Standing on a corner, sucking on a lollipop. Once I get popping, gonna make your panties drop. Prima di chiudere questo primo blocco di stasera dedicato al controinformazione, volevo solo rapidamente una notizia di oggi dall'ANSA fare i complimenti di fronte a questa situazione per cui in Italia ogni gesto di solidarietà con col popolo palestinese a questo punto ogni gesto viene ribaltato e trasformato in quello che non è, cioè in questo presunto antisemitismo. Una notizia dall'ANSA. Così come ve la scrivono loro, responsabili di genocidio, un hotel rifiuta clienti di Israele. Veramente complimenti a questo hotel Garni Ongaro di Selva di Cadore, provincia di Belluno. Nello spazio del portale di Booking.com, riservato ai singoli utenti, ha informato la clientela di non gradire la presenza di rappresentanti del popolo israeliano in quanto responsabili del genocidio. Pertanto, se desideri cancellare la tua prenotazione, sarai felice di farlo e noi saremo lieti di concederti la cancellazione gratuita. Invece di essere contento che aveva la cancellazione gratuita, questi esponenti qui sicuramente... Qualcuno, insomma, dentro delle autorità israeliane si è accorto di questa roba e ha segnalato la questione, ne hanno fatto una notizia, invece andrebbe, insomma, data solidarietà a questo albergatore di Cadorino, di Selva di Cadore. Perché non fa altro che, diciamo, è una cosa che dovrebbe essere naturale, quindi di non ospitare rappresentanti che sostengono di fatto quello che è un genocidio, punto fine. Qualche secondo di musica per staccare, poi passiamo alla secondo blocco. Fuck your seniority, I don't care, I don't accept your authority. Model minority, you won't divide and conquer us. I don't want your reparations, no apologies or declarations. You can take them back till they're given to all of us. Till they're given to all of us. Till they're given to all of us. אני יודעת עוד רבה הדרך אבל אליך בעד יחלוק כוחי אתה לי ארץ. Ecco, allora, quindi vado a presentarvi un po' quello che di cui volevo parlarvi stasera. Si tratta, come vi dicevo, di due autobiografie di due donne che ho scelto di diciamo che ho selezionato per questo motivo, che ho trovato delle affinità, cioè secondo me, questa chiaramente poi sono cose soggettive di chi legge, un'affinità, un filo comune, un qualcosa che univa queste due donne, appunto. Una è diciamo Tina Pizzardo, antifascista torinese, che racconta nella sua autobiografia molto particolare, cioè un periodo molto particolare tra gli anni 20 e gli anni, diciamo, tra la fine degli anni 20 e la fine degli anni 30. Poi vi cercherò di darvi anche un contesto di perché questa scelta. L'altra è Enza Siccardi invece appartiene a un'altra generazione e mezza, potrebbe anche fare a tempo essere una figlia, è stata figlia di partigiani, però diciamo un po' per il rotto della cuffia, nel senso che Tina Pizzardo era nata nel 1903 ed è scomparsa nel 1989. Enza Siccardi nasce nel 1943 e ci ha lasciato nel 2020. Allora, quello che secondo me ho trovato un aspetto comune alle due autobiografie è questo, insomma, tema che non basta, diciamo, la lotta, cioè basta, nel senso vale la lotta, valgono i desideri, la progettualità, la messa in opera, l'azione vale, ma non è sufficiente per costruire una lotta. La lotta si costruisce, ci insegnano queste due compagne, ci hanno insegnato, nel non rinnegare quello che si è fatto. La repressione colpisce finché non si rinnega quello che è stato fatto e quello che si vuole essere, si è, diciamo, come individui, come individue, nel momento in cui la personalità si trasforma in qualcosa che al potere, chiamiamolo, va di nuovo bene, lo Stato, il potere, il sistema, eccetera, riparametra le sue il suo tipo di pressione verso l'individuo, e quindi lo lascia di nuovo, diciamo, intoccato, non lo perseguita più, gli lascia fare la vita che vuole, fra virgolette, no? Quindi lo lascia essere qualcosa di diverso da quello che è. Prima di andare un po' meglio da vicino, ho lasciato indietro chi è Enza Siccardi, chi è stata Enza Siccardi. La compagna, appunto, vi dicevo, era figlia di due partigiani della zona di Imperia, ma fu protagonista, si avvicinò, diciamo, dopo le lotte del 69 al gruppo genovese di Lud, di cui abbiamo parlato già varie volte, e poi, appunto, negli anni 70 fece tutto il ciclo, diciamo, di partecipò a varie azioni, varie iniziative, varie lotte, e andò in carcere come Tina Pizzardo, appunto. Però negli anni, Tina Pizzardo negli anni 20 sotto il fascismo, Enza Siccardi negli anni 70, diciamo, del cosiddetto insomma della lotta armata, il cosiddetto terrorismo, stavo dicendo meglio detto lotta armata. E, dico solo questo, è come impostazione, diciamo che è diversa, evidentemente diversa, ma ci sono anche qui delle affinità. L'impostazione, cioè l'appartenenza politica di Tina Pizzardo, inizialmente è svolge attività, è militante del PC, del partito, anzi del PCD, del Partito Comunista, mentre per poi approdare a Giustizia e Libertà, comunque allontanarsi dal PC, fa tutto un suo percorso, insomma, di critica, diciamo, a determinate dinamiche interne del movimento, chiamiamolo, comunista maggioritario italiano. Enza Siccardi parte anche lei dall'appartenenza al Partito Comunista, matura una serie di riflessioni e di critiche, come dicevo prima, si avvicina col 68 a Lud, ai luddisti, poi, appunto, partecipa delle azioni con ancora in germe era Azione Rivoluzionaria, un gruppo armato, per poi, appunto, comunque fare il carcere, anche il carcere speciale, e comunque rimanere nella militanza come movimento libertario. Ecco, io manderei a questo punto un po' di musica. I'm searching for a queer love. E siamo di nuovo qui in voce per questa puntata di Zardins Magnetics del 14 novembre 20:52, siamo in diretta. Vi stavo introducendo un po' a quell'argomento che volevo esporvi stasera, e per non perdersi in ciance facciamo un attimo una, diciamo, velocemente un profilo biografico di questa Tina Pizzardo. Il titolo dell'autobiografia si chiama Senza pensarci due volte, e la compagna l'ha scritto, non è ben definito quando, insomma, tra gli anni 60 e gli anni 70. Diciamo subito, ma non ci dilunghiamo, che ha fatto bene a scriverlo, secondo me, cioè per me è stato illuminante, nel senso che negli anni 60 era uscito una biografia di Cesare Pavese. Ovviamente Pavese si era suicidato, non ha lasciato autobiografie, l'ha scritta per lui un certo Laiolo, un giornalista dell'Unità, che ha costruito tutta una, per me, mistificazione basata appunto sulla relazione che Pavese aveva avuto con questa compagna Tina Pizzardo. Ovviamente la Tina non era assolutamente d'accordo né col pubblicare tutta una serie di cose che sono state pubblicate di Pavese, che andavano pubblicate molto dopo, anche secondo me. L'argomento Pavese comunque è giustamente, e non lo tratteremo stasera, finiamo qua, diciamo è stato messo negli ultimi tre capitoli del libro. Invece l'argomento centrale del libro è un'idea di introspezione, insomma, che deve sempre essere esercitata nella militanza come nelle relazioni con, che siano amici, che siano compagni, che siano amiche appunto, o affetti, chiamiamoli così, c'è sempre presente questa forte, insomma, intenzione di esaminare quello che si è fatto e perché le cose sono andate in certo modo, vicino anche a una grande esuberanza, nel senso una grande vitalità. Per quello appunto il periodo trattato è tra il 20 di questa biografia, tra il 27 e il 38-39. Cosa succede in questi anni? La militanza di Tina, che era ufficialmente, diciamo, fidanzata a un dirigente del PC, allora giovane dirigente del PC, in quel momento era in clandestinità, diventato il PCD, e quindi svolgeva tutta una serie, no, e quindi e inoltre ha sempre svolto una serie di attività, no, clandestine. Lei racconta in lungo e in largo quello che capitava solo per, appunto, per non volersi mai piegare alla fine al fascismo, ecco. Lo dice già nelle prime pagine, che così ho pensato, non avevo pensato di leggervi, ma si capisce bene cosa intende. Tutta la mia vita, il tempo delle scelte, il tempo dell'amore, è stata condizionata dalla prima scelta non meditata, istintiva, inevitabile, di essere antifascista, in un senso che va ben al di là dell'avversione al fascismo italiano, e di restarlo a prezzo di miseria e di mia e altrui infelicità, sempre. Quindi ecco, Non so, io potrei dirvi le cose più importanti di questa biografia, perché vi permettono di farvi un'idea, ecco, del racconto. Le cose più importanti sono appunto che, come mette piede l'università, la giovane Tina ha 20 anni, facoltà di matematica, Università di Torino, dopo appunto una adolescenza e un'infanzia nel collegio delle figlie dei militari, perché era rimasta orfana di madre, e il papà a un certo punto vince la lotteria e riescono a farla iscrivere all'università. Estrazione, non l'ho detto, estrazione sociale non borghese, ma comunque neanche ecco, delle classi così più sfruttate. Come mette piede all'università, succede che lei racconta davanti a delle compagni di corso le molestie che un particolare docente metteva in atto verso tutte le studentesse, anche lei naturalmente lo fermava, e altre non so, le dice sì, altre non erano capaci di fermarlo, subivano o altro. Per questa incautela la sua carriera universitaria non sarà tanto semplice, nel senso che questo docente la bloccherà ogni esame, e dovrà ripetere quell'esame lì lo passerà sempre con voti bassi, quindi viene già pregiudicata la possibile carriera universitaria. Dopodiché appunto a fine università comincia, pur avendo sempre diciamo avuto questo sentimento istintivo antifascista, suo papà non era fascista, era diciamo di idee monarchiche, si avvicina alla cellula universitaria del Partito Comunista. Come ho detto prima, non l'ho detto prima, ma insomma per lunghi anni è militante, entra nel Partito Comunista d'Italia, perché in quella fase il Partito Comunista d'Italia aveva una struttura diciamo modellato sul partito bolscevico, no? Quindi non tutti erano tesserati, cioè non tutti quelli che volevano erano tesserati, come è diventato dopo insomma, nel dopoguerra, dopo il 43 diciamo. Ma in quel momento lì c'era l'impostazione di partito strettamente di quadri, ecco. Quindi lei diventa un quadro delle poche donne che lo sono, e subisce già vince il concorso, le danno va a insegnare in un liceo a Grosseto, è segretaria di federazione, 5 iscritti comunque. Nonostante questo, lei racconta già 25-26 i primi interrogatori, le prime perquisizioni. I fermi, lei racconta però che alle donne erano trattate diversamente, nel senso che anche il fermo le lasciavano andare a casa, diciamo, ecco, le donne le ragazze come lei, che erano avevano studiato e provenivano da famiglie non proletarie, ecco, tagliamola corta, nel senso che lei appunto ha potuto tornare a casa e dovevano presentarsi comunque la mattina successiva. Per le azioni non è che si fossero fatte grandi azioni, lei racconta di questo primo maggio dove arriva appunto la velina, a lei arriva la velina da insomma come segretaria di sciopero, ordine di sciopero per il primo maggio, lei scrive: decido io, buon senso, non un ordine. Cioè, non col buon senso, non con un ordine, solo una proposta: il primo maggio i compagni si astengano dal lavoro e facciano assieme a qualche simpatizzante un po' di festa. Tu qua non è che si poteva fare un corteo in 5, no? O in 10, e sotto, appunto, sotto leggi speciali, ecco, di Mussolini. A un certo punto il suo, chiamiamolo fidanzato, dell'ufficiale, viene arrestato e viene condannato a una lunga pena. Lei rimane ancora fuori e continua a fare attività. E a un certo punto arriva dopo una ventina di giorni le capita questa perquisizione che subisce, e poi successivamente, appunto il fidanzato viene arrestato, forse adesso non trovo più la data, comunque in maggio, mettiamo, lei viene arrestata il settembre del 27, e la portano prima alle carceri nuove, quella volta, quegli anni lì erano appena state inaugurate le carceri nuove di Torino, e le descrive, insomma, c'è addirittura una scena dove lei era in isolamento ed era, parentesi, né prima, insomma, penso della riforma, adesso vado a memoria, ma insieme prima della riforma del 75, se non anche dopo, le sezioni femminili in Italia erano sorvegliate da personale religioso, quindi da queste suore. Ecco, per assistere alla messa alle nuove, chi era in isolamento poteva assistervi, diciamo, con una, c'erano queste celle che isolavano, cioè tu vedevi solo praticamente il prete e l'altare, non vedevi nessun altro, erano come delle, chiamiamole, finestre, ecco, bocche di lupo, con, insomma, che ti impedivano i contatti con le altre detenute. La portano ad Ancona perché comunque adesso l'inchiesta si svolgeva ad Ancona, per una serie di proteste che lei fa in seguito a una tentata estorsione, hanno tentato di estorcerle con un trucco, diciamo, una confessione, e poi appunto arriva alle Mantellate a Roma, e adesso penso che manderemo il brano. Le Mantellate, ma che parla da fa, ma che parla da fa, qui dentro c'è sta solo infamità. Carcere femminile ci hanno scritto sulla facciata del convento vecchio, sacco di paglia al posto di sto letto, mezza bagnotta l'acqua, 30 arzecchio, le Mantellate, sa delle suore, ma Roma sa soltanto scure. ma che parla da fa, ma che parla da fa. Qui Trento se sta solo, infamità. Nell'amore abbi fede, ci hanno detto, domenica mattina alla funzione, 3 mesi che mi sveglio e che t'aspetto. 100 anni che sei chiuso, sto borittone. Le mantellate so delle suore, ma Roma so soltanto celle scure. Una campana suona a tutte l'ore. Ma Cristo non c'è sta dentro ste mura, ma che parla da fa, ma che parla da fa. Qui dentro c'è sta solo infamità. Sei colorato, sei sorprendente. Partita la pubblicità, va bene. No, è stata bloccata subito. Stiamo parlando del libro Senza pensarci due volte, autobiografia di Tina Pizzardo. Volevo, prima di passare all'altra memoria, ribadire continuare questo argomento sulla questione del rinnegarsi. Allora, Tina ci racconta, diciamo, come una vena sotterranea di queste memorie, un piacere, ecco, di farla commediante, ecco, diciamo male, nel senso che in molte situazioni che riguardano la sua vita si è trovata a dover, per la condizione in cui era, quindi a volte voluta ma spesso non voluta, maggioranza di uomini, di maschi, insomma, con cui avere a che fare, ha cercato di barcamenarsi, potremmo dire, ma anche di salvarsi in qualche maniera, mettendo in gioco le sue capacità anche di, diciamo, seduttive, in senso neutro, ecco, per appunto abbindolare i vari che fossero sia funzionari, diciamo, che avevano mire di potere, insomma, diciamolo tranquillamente, nel senso, erano personaggi che appunto avevano un'impostazione teorica, lei dice migliore, superiore alla mia, ma che comunque spesso mettevano in secondo piano tutta una serie di nodi, problemi, critiche che vedevano in come era impostata l'azione, l'intervento politico, ma lo mettevano da un'altra parte, non volevano vederlo perché avevano l'idea di andare al potere, di prendersi un pezzo di potere, di prendersi un'affermazione personale, eccetera eccetera. Lei questo lo ha visto, ma aveva altri interessi, ecco, diversi più, insomma, sul piano della relazione, sul piano delle amicizie, senz'altro sul piano delle conoscenze, ecco. Dove finiva però appunto la commedia e dove iniziava invece il rinnegarsi? Vi faccio una lettura, perché altrimenti dopo non c'è più tempo. Se era commedia, quanto più difficile e proficua della mia. Sta parlando di un'altra compagna di detenuta politica. Mi capita di vedere con molta chiarezza ciò che mi converrebbe fare per raggiungere un certo scopo pratico, ma il più delle volte non lo prendo neanche in considerazione, perché del successo che i più ambiscono io me ne infischio. Ma qui l'apposta era la libertà. Mi sono imposta di riflettere spregiudicatamente. Condizione necessaria, seppur non sufficiente, per essere assolta e per me rinnegare Altiero, che era il fidanzato, come questa donna di cui stava parlando. Di certo d'accordo con lui, questa donna ha rinnegato il marito. La corrispondenza tra carcerati sotto giudizio è lecita. Potrei scrivere ad Altiero una sola lettera di protesta e di ripudio. Questo no, mai. Mi basta tacere, non cercarlo. Con questo, senza messe e ricami, mostro indifferenza, sdegno. Però io, che volevo mettermi il cuore in pace e dispormi a nuovi amori, gli scrivo perché adesso rinnegarlo sarebbe una bassezza. Meglio la galera di una bassezza. Il gusto per il gesto generoso e spavaldo è nella mia natura e il collegio lo ha rinvigorito. L'8 ottobre 27 gli scrivevo da carcere a carcere la prima delle mille e forse più lettere che gli avrei scritto fino a maggio 35, quando, per essere stata di nuovo arrestata, mi sarà impossibile continuare. Oggi mi rendo conto che mi piace e mi riesce bene recitare una parte se in essa do espressione a qualcosa che pur soffocato c'è in me, tacendo, ma non rinnegando i miei veri sentimenti e pensieri. Fa due esempi di questa sua condotta. Dico questo non per vantarmi, anzi per mettere in chiaro soprattutto a me stessa i miei difetti. Se decidi di recitare una parte, recitala a fondo, senza remore, come ha fatto un altro militante al nostro processo. Il Cappellini, divenuto poi un grosso personaggio del Partito Comunista, aveva scelto come difensore un avvocato fascista e, lasciandogli dire «non difenderei quest'uomo se non fossi certo della sua devozione al Duce», è stato assolto. C'è poi il ruolo opposto, affermare la propria fede, vantare come merito ciò che per il tribunale è reato, ruolo doveroso per i capi, non certo per me, oscura militante, eppure avrei dovuto assumerlo anch'io se la velina gialla non fosse per fortuna sparita nelle tasche di Gariboldi, che era un funzionario della polizia. Altiero, il fidanzato, ha fatto di più, si è rifiutato di rispondere alle domande dei giudici, dichiarando di non riconoscere la validità delle leggi speciali, la condanna se l'è proprio voluta. Ecco, qui è veramente spietata, perché comunque lei, anche pur per una serie di vicissitudini, insomma, non si è fatta come Spinelli 16 anni di carcere, ma comunque e poi il confino, ha fatto i suoi anni di carcere, li ha fatti lo stesso, ha avuto sorveglianza speciale, ha avuto ammonizione che potremmo dire è un avviso orale, e soprattutto ha sempre, cioè, l'esclusione dai, come si chiama, dai pubblici uffici, no? Quindi ha perso il lavoro e ha dovuto tirare avanti fin dopo la guerra, sempre arrabattandosi, senza prendere, se avesse chiaramente preso la tessera del partito avrebbe lavorato, ma questo voleva dire piegare la testa. De la realidad. se logrará, dámoslo todo para cambiar, seamos conscientes de la realidad. La paz no existe, pero existirá, a menos que cambiemos, se logrará, dámoslo todo para cambiar, seamos conscientes de la realidad. Ecco, ultima così parte di questa puntata, dove appunto passiamo a Enza Siccardi, Sarà un filo di seta nero, una sua raccolta di pensieri, racconti insomma della sua vita, dei suoi persone importanti della sua vita, che è uscito un'autoproduzione nel 2015, dicevo prima, Enza ci ha lasciato nel 2020 a 77 anni. Prima di dimenticarlo, voglio dire che esiste anche ancora un podcast molto bello fatto da Matteo di Radio, a quei tempi era Radio Blackout, sotto Covid, ecco, nel 2020 è stata fatta una puntata appena insomma era mancata, agosto 2020, e noi diciamo solo brevemente che, come ho fatto prima insomma un ritratto molto veloce, ripeto, la compagna viene da una famiglia, da genitori che hanno partecipato alla lotta partigiana, anche qui siamo in un ambiente non propriamente proletario, insomma la mamma veniva da classi povere, però era riuscita, diciamo, faceva la direttrice, nel dopoguerra era diventata direttrice scolastica, il padre era, diciamo, aveva avuto vari tentativi di costruirsi una carriera, comunque è rimasto tutta la vita, ecco, un grande comandante partigiano, soprattutto conosciuto nella zona di Imperia. Poi loro si sono spostati a Genova, Enza si iscrive alla sezione PC più vicina e ci resta insomma qualche anno fin quasi alla protesta studentesca, diciamo, ecco, c'è una data precisa, comunque abbandona velocemente, ecco, le interessa più che altro la militanza con le altre donne, ecco, di questa fase, come la racconta lei, almeno quello che ho capito io. E dicevo prima, poi si avvicina come cane sciolto, lei dice, sia lotta continua sia potere operaio, partecipa a queste alle esperienze, cioè alle mobilitazioni che mettono in piedi queste due organizzazioni, ma comunque si lega molto molto insomma subito a un ricordo, appunto la segna questo legame con via Balbi 4, che era la facoltà di lettere occupata di Genova, e con i luddisti, quindi con soprattutto, anche qui c'è una relazione con Gianfranco Faina, che era appunto una figura di un docente, è una figura di questo circolo LUD. Io con la Enza volevo isolare anche qui una specie di disciplina di introspezione, appunto, su questi ricordi che lei mette, insomma, ci squaderna, si dice, ma comunque e la applica, cioè a me ha colpito anche come l'ha applicata ad esempio nella sua partecipazione al femminismo, che non critica, non viene criticato il femminismo come diciamo criticato teoricamente, ecco, teoricamente lei dice c'era tensione al cambiamento, c'era in origine buone intenzioni, desiderio di sperimentare, desiderio di ribaltare insomma la realtà e di mettere in piedi qualcosa di buono, solo che quasi subito tutto questo purtroppo è crollato, si è trasformato in altro. È proprio perché è mancata, secondo lei, lei insomma ricorda che è mancata una, ripeto, una disciplina che se fosse stata applicata a queste esperienze, anche a queste avventure, a queste fantasie che c'erano nel movimento femminista iniziale, da lì forse si poteva costruire una progettualità migliore, cioè diciamo più... che avrebbe dato maggiore che avrebbe consolidato, ecco, queste, tutte queste iniziali tensioni, ecco, del femminismo. Invece appunto lei dice si trasforma in un il femminismo come il 68, come in generale la rivolta anti-autoritaria in Italia, lei dice, si trasforma, non sono due passaggi rivoluzionari, ma una sorta di svecchiamento della società civile, cioè tutto questo si trasforma in sì, in affermazione personale, no? Cioè in chi va fino in fondo, fra virgolette, in questa deriva, finisce per raggiungere i posti che vengono lasciati vuoti nella gerarchia, quindi a rinnovarsi e affermarsi alla fine, non a mettere in moto una trasformazione collettiva. Vado a leggervi anche qua un brano che ho scelto. Purtroppo le ambizioni delle femministe si sono scontrate da un lato con le difficoltà di affrontare e rendere tangibile un percorso nuovo, straordinario e non compatibile con l'ordine costituito, da un altro con la strategia di annichilimento di qualsiasi velleità di cambiamento portata avanti in svariati modi da ideologi asserviti, dai burocrati di qualsivoglia schieramento, dall'apparato ecclesiastico, da quello economico e dai suoi funzionari, rappresentanti e mediatori. Non sarebbe corretto, tuttavia, attribuire le difficoltà incontrate nel tentativo di dar corpo alle progettualità femminista solo a fattori esterni. Ogni donna interessata a non seguire il percorso assegnatole dalla tradizione, con le varianti e i limiti imposti dalla modernità, avrebbe dovuto analizzare in modo serio se stessa, i suoi desideri, le sue frustrazioni, senza sfogare l'insoddisfazione in un ribellismo destinato a scemare nel tempo. Forse l'accostamento azzardato, ma la condizione delle donne, negli anni 70 come oggi, ricorda quella dei giovani loro coetanei, alle fiammate giovanilistiche è succeduto per molti il sedersi nella poltrona più comoda possibile o mollare del tutto il colpo, emigrando allora verso il lontano oriente dove si poteva vivere con poco, in qualche modo anestetizzati, e oggi analizzando il proprio ombelico. Mettere se stessi al centro del proprio microcosmo è un'operazione fallimentare a livello di relazioni, perché prevede l'instaurazione di rapporti non paritari, ad esempio di sudditanza. Fa vivere in modo competitivo, anche quando in realtà non c'è niente per cui competere. Se penso alle esperienze passate, a Ca di Favale, per esempio, sono purtroppo davvero poche le donne che, a mio criterio, erano tali di fatto. Non femminucce, non donne maschili, ovvero di potere, donne magari in ruoli più frequentemente maschili, ma che avevano nell'atteggiamento e nel porsi qualcosa che le differenziava dai compagni. Troppo spesso ho avuto a che fare con la demenza femminile, che consiste nella pratica della virgolette confessione, nel riunirsi in gruppetti a sparlare di qualcuno o qualcuna per nascondere il vuoto che, in assenza di esperienze su cui riflettere e crescere, di avventure, di fantasie, riempie ogni angolo di cuore e cervello, nel non poter vivere senza l'approvazione maschile e nel mal sopportare la presenza e a volte la critica di altre donne. Ecco, questo era una prima questione che viene fuori dalle memorie di Enza Siccardi. Successivamente vi dicevo che partecipa anche a delle azioni, viene purtroppo anche arrestata e viene condannata, insomma, si fa il carcere. Proprio in quel momento scopre anche di essere incinta e una gravidanza non programmata, dove appunto le capita anche una cosa che lei ricorda, l'assegnata, di cui parla e la risolve in 20-30 righe, ma che dice, ma lo stesso dopo questo, è stato un'esperienza che mi ha segnata per molto tempo, il fatto di aver partorito appunto in prigione, in sezione appunto dove c'erano in sezione di sorveglianza, con la sorveglianza di 3 poliziotti maschi. Siamo agli sgoccioli. Io vi leggo ultime righe di questo memorie di Enza Siccardi. Ritorniamo al discorso di non arrendersi, che si faceva anche prima. A un certo punto, anni dopo, anche qui in maniera paradossale ma anche spettacolare, viene arrestata sul luogo di lavoro, appunto era insegnante di lingue straniere in una scuola media a Genova, e arrivano questi qua poliziotti tutti in grande numero dentro durante le lezioni per arrestarla, eccetera eccetera, quando il momento del in seguito alla delazione di un certo pentito, che adesso però la facciamo breve, non stiamo a dilungarci. Lei racconta questa questione, questo che le succede durante un'udienza di questo procedimento messo in piedi da questo pentito Marano della colonna della brigata 28 marzo, quindi erano 95% erano tutti pentiti di questi. Allora, questo arriva alla fine e per raschiare il barile fa il nome di Enza Siccardi, ecco, nel senso che avevano già cantato in tutti i modi questi qua, e questo Marano tira fuori addirittura per cose da nulla, ecco, il nome di Enza Siccardi, e Siccardi se ne va anche a Voghera, tra l'altro, al carcere, super carcere. Vi leggo. Voglio concludere questa puntata con un'annotazione un po' fantozziana sul processo di primo grado, che può essere utile a chi ignora, nella loro concretezza spicciola, i meccanismi di scambio, i funambolismi e tutto sommato la messa in scena del rito processuale, pentiti e loro testimonianze comprese. Dunque, nei primi giorni del processo che si svolgeva a Milano, Marano è invitato dalla corte a riconoscere le persone che ha denunciato, me compresa. Va ricordato che all'inizio di ogni udienza veniva fatto appello degli imputati e io ero sempre presente. Arrivato il mio turno, Marano, che era seduto davanti alla corte, si gira verso di me con fare titubante, mi guarda e torna a voltarsi verso la corte. Ripete questa manfrina 3 volte e alla terza, irritata per il protrarsi della sceneggiata, mi alzo e dico: «Certo che mi riconosce, sono 3 giorni che mi vede rispondere all'appello». Questo intervento spinge ovviamente Marano a risolvere i suoi dubbi e a riconoscermi. L'avvocato Gaetano Pecorella, mio difensore in quel processo, esce furibondo dall'aula e io mi rendo conto di avergli in qualche modo rotto le uova nel paniere. In ogni caso, quando in seguito ho riflettuto su quell'udienza, non ho avuto ripensamenti. Come sarei stata se, andando le cose in altro modo, fossi stata l'unica di tutti i coimputati accusati da Marano a beneficiare di un ripensamento del pentito? Senza dubbio mi sarei fatta un po' schifo. Stiamo ascoltando questa band di Kina dal loro album, che era più che un album, era una cassetta, Nessuno schema nella mia vita, uscito nell'84, poi più volte ristampato su vinile. E anche abbiamo ascoltato una band peruviana, i Desarmé. Bene, questo diciamo è tutto. Ricordo che questa è Tardis Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta dalle 20 alle 21.30, oggi 14 novembre 2024. Quindi ci risentiamo il prossimo giovedì. Ricordo che potete riascoltare questa trasmissione e quelle delle volte scorse su tardismagneticsradio.noblogs.org. Abbiamo diciamo sforato, ciao a tutti, alla prossima.